A tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Flavio Solari in redazione, Fabio Cantadori in regia. Vi dico subito che per la cronaca ci sono notizie molto confortanti riguardo a Felipe Massa. Il medico che lo ha in cura in Ungheria dice che potrebbe essere dimesso tra 10 giorni. Stefano Domenicali, team manager della Ferrari, dice che Felipe sta meglio, sta facendo progressi incoraggianti, lo aspettiamo presto. Mi ha riconosciuto, mi ha teso una mano per salutarmi, mi ha detto di non ricordare nulla dell'incidente. I dati sono confortanti, ma è meglio essere prudenti, gli ho detto che lo aspettiamo. Il futuro, cerchiamo di capire come reagirà, poi prenderemo le nostre decisioni. Questo per la cronaca. Sempre per la cronaca, il nostro numero verde, vi aspetto, 800240024, messaggi al 349-238-6666 ed è il giorno, calcisticamente parlando, delle presentazioni. È cominciato ieri con Ibrahimovic che ha già mollato un bel bacio sulla maglia del Barcellona. Non un bacio di Giuda, come magari mi aspetto dirà qualcuno, piuttosto la galanteria, credo, di un corteggiatore furbo e interessato davanti a 50.000 paia d'occhi da conquistare in fretta. Ma come dice Moratti, non è tipo da sentimenti profondi per una maglietta, Zlatan Ibrahimovic. Tra mezz'ora, in programma 14.30, magari riusciremo a sentire anche qualcosa in diretta, la presentazione di Eto'o. Qui facciamo le cose diversamente, sala stampa, microfono, telecamere, non ci saranno, suppongo, baci sulle magliette, anche perché non mi sembra proprio il tipo, il camerunense. Intanto l'altra Milano sta a guardare, rosicando non poco, ma ho sentito pochi istanti fa le dichiarazioni di Leonardo ormai di un paio di giorni fa, che con una faccia bella scura, per la verità, per la prima volta ha alzato il ditino. Scusate, qui siamo, non ci siamo tanto, servono rinforzi all'esterno come in mezzo all'attacco. Questa mattina Gagliani ha risposto con queste dichiarazioni: vedremo, vedremo, vedremo. Vedrò Leonardo questa sera a Monaco di Baviera e quindi parleremo, ma non c'è nessun problema, calma, c'è tempo fino al 31 agosto. Una richiesta per Pirlo? No, non è mai arrivata alcuna richiesta per Pirlo. Questo ha detto stamattina, o non ha detto, se preferite, questa mattina, Adriano Gagliani. In viaggio verso Monaco di Baviera c'è Andrea Schianchi, inviato della Gazzetta dello Sport, mio amico. Ciao Andrea. Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori. È sembrato bello arrabbiato Leonardo, in quelle dichiarazioni. Più delle parole contavano gli occhietti scintillanti. Sì, è sembrato abbastanza arrabbiato, ma credo che si debba mettere il cuore in pace. Tu dici? Ma io non credo che il Milan potrà fare granché sul mercato. Intanto ha rastrellato diversi dollari da questa tournée americana. 4 milioni per queste zingarate in giro per gli Stati Uniti, non è il massimo però agonisticamente per una squadra che deve comunque costruirsi, quindi anche da lì magari nasce la rabbia di Leonardo. Io credo che nasca soprattutto da lì, d'altronde però bisogna anche mettersi nell'ordine di idee che il Milan investimenti non ne può fare perché non ci sono soldi. È inutile raccontarsi le frottole, continuare a dire vedremo, vedremo, vedremo. Sarebbe più logico dire in questo momento sarà un anno di transizione. Sì, mi sembra infatti la cosa più logica. Ma infatti Leonardo ha detto aspettiamo di vedere se compriamo qualcuno e poi realisticamente fisseremo degli obiettivi. Però non vedo nessuno del Milan pronto a dire sarà un anno di transizione, puntiamo al quarto posto, a quello che vuoi, però ad un obiettivo comunque raggiungibile, non alla caccia alle lucciole. Però secondo me sarà così, sarà indubbiamente una stagione secondo me di secondo piano, perché l'Inter è più forte, perché la Juventus è più forte e perché, ripeto, il Milan non vedo come possa comprare qualcuno. Ma secondo te... non dimentichiamo che quest'anno il Milan ha già preso tre sportellate in faccia, una per Dzeko, una per Luis Fabiano e una per Huntelaar. Sì, anche se... non eravamo abituati a questo. Sì, no, ma il discorso è che comunque l'offerta del Milan è sempre la stessa, come abbiamo detto molte volte, cioè sono quei 14-15 milioni, vediamo se verrà aggiunto qualcosa. Da questo punto di vista Gagliani sta aspettando i saldi, no? Perché dice siamo a luglio, il mercato chiude il 31 agosto, stiamo ad aspettare che i prezzi scendano perché noi più di quelli non abbiamo da offrire. Su questo non c'è dubbio, però io non tanto non vedo giocatori all'altezza, cioè comunque giocatori che possano fare un salto di qualità. Poi dobbiamo essere abbastanza realisti. Allora, il Milan era più debole dell'Inter anche con Kakà. Adesso che non c'è più Kakà, a maggior ragione credo che sia più debole. Sì, è un discorso algebrico, insomma. Mi sembra di sì, insomma, cioè mi sembra assurdo continuare a dire il Milan è sicuramente tra le prime quattro, ma non so per quale motivo. Quindi secondo te non arriva nessuno neanche sulle fasce, come ha chiesto Leonardo? Ma forse lì qualche cosa potrebbe arrivare, ma io credo che non sia comunque un arrivo che possa cambiare il volto della squadra. L'Inter secondo me ha fatto un gran mercato invece, Andrea. Sono assolutamente d'accordo. Da ogni punto di vista, dal punto di vista... Non so quanto sia stato un mercato calcolato o quanto sia stato un mercato trovato. Casuale. Sì. Però il cambio Ibrahimovic e To con soldi a favore dell'Inter. E non pochi, E non esatto, pochi. Esatto, non pochi, è sicuramente ottimo. È arrivato anche l'Eb, manca quel trequartista che Mourinho ha chiesto tante volte e quello onestamente sarebbe la pedina ideale, anche perché Mourinho, oltre che Leonardo, tra un viaggio e l'altro, tra un aereo e l'altro, dovrà trovare il tempo per disegnare qualcosa di diverso, perché sarà un Inter differente quella che vedremo. Sì, sicuramente sarà un Inter differente, probabilmente un Inter meno basata sulla potenza di Ibrahimovic, ma più sull'agilità di Eto'o. Però, ripeto, stiamo parlando di un giocatore fantastico. E io sinceramente credo che non ci siano in Italia squadre che possono competere con lì. No, in Europa magari è un altro discorso, però, però secondo me anche da questo punto di vista la distanza si è ridotta rispetto alle grandi. Anche Lussi è un acquisto importante per caratteristiche tecniche, perché è quel giocatore in grado di far ripartire l'azione che Mourinho ha chiesto tante volte. Sì, sì, questo è vero. Io credo che l'Inter abbia sicuramente ridotto anche a livello europeo il gap, però ritengo ci siano delle squadre ancora superiori in Europa. Mi riferisco in particolare al Barcellona e al Chelsea. Senti questa, agenzia delle 15.05, quindi di un minuto e mezzo fa. Silvio Berlusconi è deciso a non acquistare più calciatori trentenni per il Milan, anche perché, parole tra virgolette, guadagnano molto, dice, parlando dal transatlantico di Montecitorio al termine delle votazioni sul decreto anticrisi. Punteremo su chi ha meno di 23 anni, ha aggiunto parlando poi con Umberto Bossi ed un parlamentare del PD di fede milanista. Giovani ma forti, in grado di reggere il palcoscenico della Champions League, una considerazione che ha trovato concorde il Premier, che poi non ha commentato l'ipotesi di queste ore di uno scambio tra Andrea Pirlo e il centravanti del Chelsea, Claudio Pizarro. Ti piace? Allora, l'ipotesi dello scambio secondo me è tramontata perché il Chelsea ha inserito pochi soldi. Se aumenta il conguaglio, credo che la cosa si possa fare. Per quanto riguarda i giovani e forti, se Berlusconi ha anche i nomi da fare, aspettiamo. Sarebbe buona cosa, perché non credo ce ne siano in circolazione. Sì, e poi quelli che ci sono, l'impressione che se sono bravi qualche euro costano. Sì. Ma sarebbe più logico dire le cose come stanno, ripeto, invece si continua a gettare fumo in faccia alla gente. Io ripeto, per me Leonardo è sempre di più salvate il soldato Leonardo. Sì. Come sta lavorando Leonardo sul campo? Secondo me sta lavorando bene, però è il solito discorso, se ti danno soltanto le cipolle e le carote per fare il minestrone è difficile. Sì, sì, non c'è dubbio. Curioso di vedere stasera invece la Juventus con Diego, perché la Juventus, se c'è una squadra che in Italia può dar fastidio all'Inter, è proprio la Juventus che sta nascendo e che credo non abbia ancora finito di mettere a posto i suoi tasselli di mosaico. Io credo che Diego sia un ottimo giocatore, l'ho visto più di una volta nel Werder Brema e posso dire che sicuramente era l'uomo squadra. Deve avere anche la personalità e la forza fisica per diventare uomo squadra in Italia. Questo non so se sarà in grado di farlo. Io penso di sì, però ovviamente solo il campo lo può dire. Sì, certo. Credo sia proprio l'ago della bilancia juventina. Cioè, dal valore effettivo di Diego nel nostro campionato dipenderanno gran parte dei destini bianconeri. La penso anche io esattamente così. No, mentre parlavi stavo pensando a quelle parole di Berlusconi, under 23, giovani forti, eccetera eccetera, e pensavo anche allo scherzo che un hacker ha fatto ieri al Milan, sito internet del Milan. Tra l'altro un ascoltatore ha mandato anche ieri un sms, ma come, l'hanno annunciato poco fa l'acquisto di Giuseppe Rossi, poi è sparito tutto dalla home page, è stato chiarito che era uno scherzo di un hacker. Io ho detto, ma magari stanno facendo le prove. Ma può anche darsi che stiano facendo le prove. Però sono sincero, Giuseppe Rossi non è un giocatore che cambia il volto del Milan. È un buon giocatore, non è un fuoriclasse. Andrea, dimmi. No, volevo dire, lo dico avendolo seguito una stagione intera a Parma. Non è il giocatore che possa fare il salto di qualità. Per chiudere, Andrea, c'è un ascoltatore che invece mi chiede via SMS di chiederti qualcosa sul Parma. Parma credo che abbia fatto una buona campagna acquisti, finora non completa. Servono ancora almeno un attaccante di peso e secondo me anche un difensore. Poi penso che possa essere una squadra che si salva tranquillamente. Questo è quello che devono fare. Tutto sommato, se guardiamo le concorrenti, io credo che il Parma si sia abbastanza rafforzato. Sì, attaccante di peso che potrebbe essere Božinov, si continua a leggere. Sì, sì, questo è quello che desidererebbero. Io non lo so a che punto sia il suo recupero fisico, perché chiaramente questo è il punto interrogativo. Però insomma il Parma credo che abbia la possibilità di fare un campionato tranquillo. Grazie Andrea, buon viaggio e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie davvero ad Andrea Schianchi. Dunque, abbiamo fatto un po' il punto sul mercato o non mercato del Milan con le parole di Galliani. Se volete ve le ripeto, non è difficile. Vedremo, vedremo, vedremo. Questa sera incontrerò Leonardo a Monaco di Baviera e tra le righe, aspetto che mi dica in faccia quanto ha detto, poi concorderemo delle le smentite del caso. Silvio Berlusconi dice che il Milan basta calciatori trentenni per il Milan, adesso si punta su chi ha 23 anni, giovani ma forti, dice il proprietario del Milan. Aspettiamo Eto'o che sta per arrivare in sala stampa, poi vi farò sentire anche qualcosa. Nell'attesa vi faccio sentire l'altra faccia di questa medaglia, la più interessante dell'estate, e cioè Zlatan Ibrahimovic. Sentiamo cosa ha detto ieri. No, ma quando ringrazio il Presidente, ringrazio tutta la club, tutti i tifosi che sono stati bene con me, anche i colleghi. Senza di colleghi non potevo fare quello che ho fatto, perché loro mi hanno aiutato per 3 anni. Io penso che ho aiutato anche loro un po', ma quando ringrazio Moratti e tutti sotto lui è uguale secondo me. Poi sono molto contento di ho giocato in Inter e mi dispiace che sono andato via, però sono più contento per giocare in Barcellona e voglio dimostrare qua che quello che ho fatto in Inter e voglio crescere ancora, però tutti, ringrazio veramente tutti che sono stato dietro di me lì. Così Zlatan, appena prima di baciare ripetute volte la maglietta del Barcellona e dopo aver detto solo al Barcellona club speciale, ho detto all'Inter se qualcuno mi cerca ci sono solo per il Barça. Non è riuscito a dire che era tifoso del Barça quando era bambino, anche perché l'aveva già detto quando era arrivato all'Inter, dunque o uno tiene per tante magliette oppure non è possibile autosmentirsi. Qui ho anche diversi messaggi, 349-238-6666. In quel bacio alla maglia c'è tutto l'enigma Ibrahimovic. Mi sembra che parlò di non baciare maglie, scrive Lori da Milano. Altro ascoltatore, Max, e tu vale più di Ibra, quindi grande affare per noi. Ibra ha fatto apposta a baciare la maglia, ma noi non ci caschiamo. Eccetera, eccetera, eccetera, via discorrendo. Intanto sono d'accordo con quanto scrive Max. Non che tu valga più di Ibra, perché mi sembrano discorsi un po' così. È un giocatore diverso Eto'o rispetto a Ibrahimovic, sarà un'Inter diversa quella di Eto'o rispetto all'Inter di Ibrahimovic, così come penso che anche vedremo anche un Barcellona differente, anche perché Ibrahimovic è il giocatore in grado nelle giornate di luna storta di inventarsi da solo qualcosa, si tira la palla da davanti e si vede un po' che cosa riesce a creare. Marco, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, io volevo fare una considerazione molto rapida sullo scambio Ibrahimovic-Eto'o. Sì. È vero che i due giocatori sono molto diversi, in valore assoluto Ibra forse è meglio sia per qualità tecniche che fisiche. Sì. Però forse per il gioco del Barcellona, cioè io provo a interpretare in questo modo, Guardiola è uno che gioca molto la palla, scambia terra, molto veloci. Anche quest'anno si sono visti molti scambi anche al limite dell'area, Messi, sì. Henry, Eto'o. Sì. Sì. Eto'o dava la profondità al sì. Barcellona, quella che Ibra non riuscirà a dare più di tanto perché è meno veloce. Lui darà tanta qualità tecnica se ne avesse bisogno il Barça, visto anche Iniesta, Xavi eccetera. E quindi lo scambio veloce sarà l'arma del Barcellona, non che non lo fosse prima, ma con Eto'o si aveva molta più profondità, quindi sì. forse Ibra si sposterà un po' a sinistra e Henry giocherà leggermente più centrale quando avranno bisogno di cercare la profondità. Questo è il mio parere. Sì, e sì, tu sì. all'Inter invece darà molta più profondità insieme a Milito, una coppia che si completa alla perfezione, a mio parere. No, se io penso che le hanno dato 50 milioni, direi appunto. Che l'Inter è, no, no, non ma ha non, sbagliato. No, no, ha fatto non bene, stra bene, ha fatto un grande affare l'Inter. Poi ieri notavo, le sue considerazioni tecniche sono ampiamente condivisibili, secondo me. Rimane un mistero, un punto interrogativo che ancora non sono riuscito a chiarire nemmeno parlando con gli amici di Spagna, perché il Barcellona si sia voluto a tutti i costi disfare di Eto'o. Questo è abbastanza misterioso per me e non è una cosa degli ultimi giorni. Ci ha detto molte volte Filippo Maria Ricci dalla Spagna che il Barcellona ha cominciato a mettere sul mercato Eto'o, a forzare la mano a Eto'o e ai suoi procuratori dal giorno dopo quella notte romana in cui il Barcellona con gol di Eto'o ha vinto la Champions League. Giocatore mai profondamente gradito a Guardiola, e questo rimane misterioso anche perché Eto'o nel progetto Barcellona aveva una sua importantissima funzione al di là del numero dei gol fatti. Per il resto condivido insomma quanto detto, e aggiungo la riflessione che è quella che abbiamo fatto anche ieri con alcuni ascoltatori. È curioso notare anche come non ci sia nessuno praticamente nel popolo interista. Sta parlando di Eto'o, dichiarazione di ieri, ve lo faccio sentire così di sfuggita alla televisione, effetti sonori. Per ora, perché da oggi in poi le occasioni per il tradimento non mancheranno. Vabbè, ma tanto tra poco lo sentiamo in conferenza stampa. No, curioso notare come non ci siano molti interisti che rimpiangono, che si disperano per la partenza di Ibrahimovic. Tutt'altro. La maggior parte degli ascoltatori, dei tifosi dell'Inter, fanno proprio queste considerazioni. Grande affare ha fatto Moratti, 46 milioni messi in banca, è arrivato Eto'o, che ha la stessa età di Ibrahimovic, è arrivato come aggiunta anche l'Eb, sebbene con una formula ambigua, prestito con stipendio pagato dal Barcellona, insomma nel pacco è arrivato anche l'Eb, che credo possa essere giocatore funzionale per Mourinho, dunque meglio di così secondo me si muore. Gabriele Lecco, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi richiamato. A lei. Niente, io volevo aggiungere una cosa su Ibrahimovic, visto che l'Inter, gli faccio i complimenti al signor Moratti perché ha fatto un affare bestiale, invece noi della Juve gliel'abbiamo regalato per due soldi di calcio. Un attimo solo, sentiamo Zanetti. All'Inter, noi dobbiamo pensare a quelli che sono all'Inter. Ibra sicuramente un grande campione. Io cercherò di dare il massimo per la squadra. Cosa ha provato quando hai visto Ibrahimovic baciare la maglia del Barcellona? Non l'ho visto, quindi non posso dirtelo. Certo, ringraziamo Ibra per i tre scudetti e adesso pensiamo a Eto'o, che è molto molto forte. Bocca al lupo a Ibra perché è un grandissimo giocatore. Questa è morta. Benvenuta a Samuel, che è un altro grande giocatore. Senti, ma del bacio di Ibra alla maglia del Barcellona, tu che sei uno dei simboli di questa Inter, Cordoba. Cosa pensi? No, niente, niente. non è un giocatore che da 10 anni qua all'Inter, quindi ci può stare, anche perché secondo me gliel'hanno chiesto i tifosi, la società, quindi non c'è nessun problema. Queste sono le voci degli interisti che abbiamo sentito alla spicciolata, arrivati questa mattina dagli Stati Uniti. Bella la faccia di Materazzi: oh, niente, non l'ho visto dare i baci, lo ringraziamo per gli scudetti, pensiamo al resto. Più delle parole era indicativa l'espressione. Gabriele, stavamo dicendo? Eccomi, niente, appunto facevo i complimenti al presidente Moratti perché ha fatto un gran bel affare. Prendere vedere Ibrahimovic per 50 milioni di euro quando l'ha preso dalla Juventus per poco, niente in pratica. Io sono juventino, a me Ibrahimovic sinceramente vederlo in campo giocare mi mancava tanto, anche se per tanti juventini è diventato un traditore. Non lo è per me, però ecco, volevo sentire un suo parere se... No, ma beh, insomma, io penso che Ibrahimovic sia uno straordinario giocatore di pallone. Sulla sua simpatia avrei da discutere, però insomma, i giocatori di calcio sono pagati per giocare a calcio, non per fare i cabarettisti, quindi Ibrahimovic va preso così com'è. Io sono sempre dell'idea che quando un giocatore lautamente pagato, ma questo non conta poi più di tanto quanti soldi prenda, però quando uno si lamenta dicendo che non mi trovo bene, voglio andare via, eccetera, eccetera, eccetera, quando uno comincia a fare i capricci e soprattutto li fa pubblicamente sui giornali, sulle televisioni, alla radio, eccetera, meglio lasciarlo andare. E ripeto quanto ho detto mille volte, benissimo ha fatto Moratti a dire: Ibrahim se ne vuole andare, prego, troviamo qualcuno che ci dà una contropartita gradita, e mi sembra che dal Barcellona sia ampiamente arrivata questa contropartita gradita, Ibrahim se ne può andare, e così ha fatto. Piuttosto sarebbe interessante sapere e capire quanto ha pesato la campagna acquisti impressionante del Real Madrid su questa decisione di la Porta e del Barcellona di prendere Ibrahimovic, perché ho l'impressione che un certo peso ce l'abbia avuto dal punto di vista dell'opinione pubblica l'estate madridista nell'affare Ibrahimovic da parte del Barcellona. Abbiamo Pasquale da Bari, prego. Buongiorno, è tifosissimo del Milan, sangue rosso nero, non posso donarlo. Sì. Allora, mi ascolti, il Milan ha dato cacà per salare il bilancio, no? Sì. E va bene. Perché non dà pure Papio Pirlo? Compra Fabrica, Luis Fabiano e Zeko e aggiusta la squadra e noi capiremo. Dunque io Pato non... Pasquale? Sì. Ma è convinto dell'opportunità? Sì, tranquillo. Bah, insomma... Vale, io ho 45 anni, ho visto tanti giovani di Milan andare anche andare via. Perciò non vedo perché Pato, che sembra che abbia un po' di malumore a restarci, dovrebbe rimanere. Li danno via sia Pirlo che Pato, incassano 90 milioni di euro... Prendono Fabrica, Luis Fabiano e Zeko e fanno una bella squadra. No, allora, chi gli dà i 90 milioni? Tra Pato e Pirlo, il Chelsea. Bah, son mica così convinto che il Chelsea sia pronto a... Anche perché Abramovic non mi sembra più quello di qualche anno fa che arriva, compra tutto e se ne va. Insomma, mi sembra molto più attento e soprattutto iscrive nella contabilità ogni sterlina che investe nel Chelsea, perché non mi sembra più così disposto a far follia. Ancelotti lo sa benissimo, tanto che il Chelsea, insomma, ha bisogno di una punta centrale, non mi pare sia arrivata, ha bisogno di altri 2-3 giocatori e fanno un po' come al Milan, temporeggiano, quindi non sono così convinto che siano pronti a far arrivare dice 90 milioni di euro per Pato e per Pirlo. Pato è un giocatore su cui vale la pena insistere, insomma, vale la pena costruire una squadra, vale la pena costruire un futuro, non dimentichiamo che è giovanissimo. Per Pirlo può valere un discorso parzialmente diverso, ma il fatto è che le logiche milaniste sono in questo momento differenti. Kakà è stato venduto per risanare il bilancio, come ben sapete. I soldi che il Milan ha la possibilità di investire su questo mercato sono né più né meno quelli incassati dalla cessione di Gourcuff al Bordeaux. Sono quei 14-15 milioni di euro che vengono offerti, che sono stati fin qui offerti da una parte e dall'altra, per avere al momento un attaccante. Leonardo chiede, oltre all'attaccante, anche dei giocatori di fascia, degli esterni. E la risposta di Galliani, se volete la ripeto, è: vedremo. Quindi io credo che i discorsi in casa Milan siano questi. Poi ci sono le dichiarazioni di Berlusconi: basta con i trentenni strapagati, vogliamo giocatori di massimo 23 anni, e mi sembra un discorso ampiamente condivisibile da tutti i punti di vista, perché non dimentichiamo anche il fatto che il Milan ha al collo la corda di un monte ingaggi spaventoso, a partire da Ronaldinho verso tutti gli altri. Leo da Modena, poi ci fermiamo un attimo. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Intanto ho sentito prima un suo interlocutore dire che per lui l'Inter era più forte. Secondo me la Juve l'ha raggiunta, quantomeno. Poi, siccome condivido con lei la passione per il basket, vorrei sapere cosa ne pensa di Artesta e Lakers, se sono molto più forti. Sì, qui saltiamo un po' di palo in frasca. Già anticipo che comunque di basket oggi abbiamo in programma una chiacchierata verso la finale di questa puntata, soprattutto in chiave azzurra, perché c'è la nazionale che è alle ultime battute della preparazione, e poi dal 5 agosto si comincia a far sul serio con Francia e Finlandia per cercare gli europei. Lakers più forti con Artesta, non c'è alcun dubbio, nettamente più forti, anche perché è arrivato il giocatore che completava il tassello. Quanto al resto Juventus che raggiunge l'Inter, bah, vediamo. In questo momento non, insomma, io credo che la Juventus sia la più forte delle altre. Credo che l'Inter sia uscita decisamente rafforzata dalla campagna acquisti estiva. Questo sì, partiti di Ibrahimovic, come sappiamo, sono arrivati i giocatori che conoscete. Dunque abbiamo un Inter più forte, io credo. Avremo, io credo, un Inter diverso, e questo è l'aspetto più interessante, perché, come detto, con questi ingredienti dovrà cambiare la costruzione di Mourinho. Sarà un Inter differente, forse più vicina alle idee originali di Mourinho, che ha parlato comunque di una squadra in grado di giocare più alta, in grado di utilizzare meglio le fasce, in grado di giocare più profonda. Quindi sono molto curioso di vedere come Mourinho disegnerà l'Inter. La Juventus, ripeto, è la più forte delle altre. Stasera la vediamo per la prima volta in versione semicompleta, ma non, nulla conta, insomma, perché ancora per una quindicina di giorni diciamo che siamo solo alla chiacchiera, siamo solo al divertimento fino a se stesso. Tra 15 giorni, in vista dello striscione del primo chilometro del campionato, allora saranno valutazioni un po' più attendibili. Ripeto, il valore assoluto della Juventus è elevato, ma dipenderà in gran parte dal valore di Diego nel nostro campionato, perché il campionato tedesco, come sappiamo, non è estremamente probante dal punto di vista del valore assoluto dei giocatori. Mi sembra un eccellente giocatore. Quanto sia forte, quanto sia bravo, quanto sia vicino all'essere un fuoriclasse, lo scopriremo in questa stagione, e da ciò dipenderà, credo, la stagione juventina. Ci sono notizie un po' contraddittorie relative a Michael Schumacher, perché poco fa è stato diffuso una dichiarazione della sua portavoce alla BBC, secondo cui non è escluso che Schumi possa guidare la macchina del cavallino in attesa del ritorno di Felipe Massa. Sua portavoce dice: l'intera questione deve essere considerata dalla Ferrari, in condizioni normali non sarebbe interessato, ma questa è una situazione diversa, dice la portavoce appunto oggi in un'intervista alla BBC. Però queste dichiarazioni sono superate dagli eventi, perché agenzia del 14-27, in un'intervista ad un settimanale tedesco, Michael Schumacher ha escluso in maniera definitiva un proprio ritorno in Formula 1, dicendo: non ha senso che io parli ora di offerte, colloqui intensi, seri non ci sono stati, questo perché la mia decisione è presa, ha detto 7 volte campione del mondo, che ha anche escluso un suo più forte impegno presso la sua ex scuderia, la Ferrari, per la quale lavora come consulente. In quel caso dovrei accettare un lavoro a tempo pieno, ma non se ne parla, proprio perché la mia libertà mi piace in modo straordinario. Queste le dichiarazioni di Michael Schumacher. Adesso però è il momento di parlare dei mondiali di nuoto. Nissan City Cars. Welcome to Simplicity. Vi presenta Roma 2009. Mondiali di nuoto. Eccoci alle piscine romane e a Dario Ricci, nostro inviato. Ciao Dario. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Che è successo stamattina? stamattina c'è grandi cose in vasca e grandi dibattiti a bordo vasca, Carlo, perché in piscina abbiamo visto un ottimo Terrin che si è qualificato col quinto tempo nella semifinale dei 50 farfalla, uno splendido Federico Colbertaldo che è entrato in finale negli 800 metri stile libero con il nuovo record europeo 7:44:29 e una Federica Pellegrini che con giudizio e il freno a mano tirato si è qualificata per le semifinali dei 200 metri stile libero con il sesto tempo, seconda in batteria alle spalle della Schmidt, miglior tempo della Vollmer, insomma una Federica Pellegrini sotto controllo dal punto di vista agonistico, meno sotto il profilo verbale, direi così, perché ha un po' rilanciato la polemica sui super costumi. Giorni importanti anche da questo punto di vista, poi sentiamo le voci e analizziamo con calma anzi Federica Pellegrini la sentiamo subito, poi parliamo di costumi. Siamo tranquillissimi, insomma non c'era bisogno di tirare più di tanto questa mattina, entravano le prime 16, quindi va benissimo così. Non ho cercato il cambio di ritmo nella seconda parte di gara perché appunto non ritenevo ce ne fosse bisogno. Le altre sono andate molto forte, però comunque la gara sarà in finale, perché comunque 200 li reputo la mia gara, quindi mi seccherebbe molto sbagliarli. C'è un campo di partecipanti anche più agguerrito rispetto forse ai 400, Federica? Beh sì, penso di sì, ma anche nei 400 era molto agguerrito perché comunque eravamo lì di due decimi tutte quante. Questa Federica Pellegrini, ma oggi sui giornali si parla moltissimo di appunto l'argomento lanciato da Dario Ricci, quello dei costumi. Ad esempio leggo Stefano Arcobelli nel suo punto sulla Gazzetta dello Sport: 11 record mondiali in due giornate stanno svilendo il senso tecnico della rassegna. Ogni volta che crolla un primato, anche in platea non c'è più l'effetto clamore, lo stupore di una volta. Il record ha perso da due anni quell'aura d'impresa che fa discutere. Roma 2009 passerà alla storia come il mondiale con più primati, ma la nuova FINA che si insedia oggi deve subito porsi un nuovo comandamento, non perseverare, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque, Dario, costumi. Argomento costumi, alle 17 la FINA ci farà sapere in una conferenza stampa quale sarà la nuova linea, in realtà è già stata anticipata, ritorno al tessuto e quindi no ai superbody di ultima generazione che stanno riscrivendo l'album dei record anche qua a Roma, ma oggi dicevamo Federica Pellegrini proprio sull'argomento costumi è intervenuta in maniera molto decisa, perché c'è un problema di gestione del marchio, di fatto Federica ha vinto l'oro sui 400 con il nuovo record del mondo con il costume della federazione, dello sponsor tecnico della federazione italiana, la Jake di Vigevano, e abbiamo qui ospite il presidente Francesco Fabbri che fra poco lo coinvolgeremo nel dibattito. Poi però di fatto la Jake ha utilizzato l'immagine di alcune foto di Federica con il costume appunto Jake che è diverso dal suo sponsor tecnico Mizuno per celebrare questo trionfo, da qui le ire di Superfede che oggi ha tuonato dicendo si sono viste sui giornali cose illecite rispetto alla gestione del mio sponsor tecnico e questa è la situazione che si è venuta a creare. Chiediamo subito al presidente della JAKE, Francesco Fabbrica. Presidente, si aspettava questo sfogo di Federica dopo che sulla convivenza tra i due marchi, il vostro e quello dello sponsor personale di Federica, la Mizuno, c'era stato di fatto un accordo sostanzialmente dopo giorni di polemiche in seguito anche al record del mondo di Pescara? Per quanto riguarda il discorso di questo putiferio che è nato oggi in funzione di questa pubblicazione, noi siamo molto tranquilli perché sono state pianificate delle pagine per diversi atleti e quindi siamo molto siamo rimasti molto colpiti da questo sfogo che mi sembra un po' troppo eccessivo, perché in fondo abbiamo denotato la valenza dell'atleta come atleta italiana con una vittoria record e medaglia d'oro. Federica la pensa un po' diversamente, va aspettate a questo punto magari delle azioni legali, che questo contenzioso possa arrivare anche alle carte bollate. Ma guardate, oggi come oggi, quindi siamo a goderci questi spettacoli di nuoto qui a Roma, in queste giornate fantastiche che ci regalano molte, molte soddisfazioni. Niente, poi dopo già vedremo come si svilupperanno queste cose. Comunque oggi io invito tutti ad accentrare il discorso sugli atleti e sulle gare che ci sono in vasca. Ah, come mai non si riesce a trovare un punto di equilibrio tra la gestione di questi marchi, tra quello che è il partner tecnico della federazione e quelli che sono poi gli sponsor individuali dei vari atleti? Secondo lei quale potrebbe essere una soluzione? Ma adesso oggi, come dico, quindi io sono concentrato a vedere in vasca quanti costumi jacket quindi ecco, abbiamo sia gli italiani che anche, io dico, ecco, moltissimi, cioè stranieri che indossano il nostro costume, e sono focalizzato e attento a queste performance. Poi per il resto cioè direi che c'è tempo da parlarne. Direi di fatto, mi concedo la battuta, il problema è che il vostro costume si sta dimostrando il migliore del lotto e quindi sta creando qualche difficoltà a atleti legati ad altri marchi. Ma questo è appunto è quello che si può vedere, quello che si può constatare anche dagli addetti, oltre che dal pubblico, anche dagli addetti cioè, specifici. Quindi questo ci fa senz'altro cioè, piacere, perché è un'evoluzione che nel mondo del nuoto così è un passo molto molto importante per quanto riguarda il movimento nuoto, cioè perché porta molto interesse, e dietro l'interesse cioè, secondo me c'è anche una movimentazione economica non indifferente, che ne va sempre e soltanto a beneficio del mondo del nuoto. Alle 17 la conferenza stampa della FINA, che detterà le linee guida per quello che sarà il futuro, si ipotizza un ritorno al tessuto tradizionale, lo ritiene possibile a questo punto, quando invece la tecnologia e anche le abitudini degli atleti sono così radicalmente cambiate? Insomma, quest'anno, cioè partendo dai campionati europei in Olanda l'anno scorso, quindi quest'anno abbondante, è stato pieno cioè, di soddisfazioni, voglio dire anche per tutti e anche per gli appassionati cioè, di nuoto. Se si dovesse cioè, ritornare fra virgolette indietro e quindi ritornare a degli indumenti cioè, diversi da questi diciamo dunque super body, noi accettiamo senza nessuna critica questa regola, ma purché questa regola sia ben chiara e ben precisa. Grazie a Francesco Fabbrica, al presidente della Jacket, Carlo, insomma, come vedi, tanti record che però non fanno parlare poi alla fin fine solamente di quello che avviene in vasca, perché l'attenzione è concentrata su certo. Questo tema. Del resto il superbody non è un attrezzo che non influisca, anzi, no, sulle prestazioni certo. Dell'atleta. Non è lo scarpino per il calciatore, ecco, è qualcosa di più. Non è la scarpa. Io penso che comunque l'evoluzione dei materiali sia, insomma, faccia parte anche della storia dello sport. Credo però che in questo caso si sia andati un po' oltre, perché è qualcosa che permette agli atleti in termini proprio matematici di tempi di fare dei record che probabilmente non sono ancora nelle corde dei superatleti di oggi, quindi un ritorno al costume tradizionale non lo vedo male. Poi al di là di quello, insomma, che mettano body non body, tuta intera eccetera, questo non conta, è una questione di materiali, perché questi materiali spostano il cronometro all'indietro, quindi indubbiamente sono una componente troppo pregnante dei tanti record che stiamo vedendo a Roma in questi giorni. Dario, per chiudere, Colbertaldo questa mattina ha fatto un tempone. Sì, Colbertaldo fantastico nel suo 7:44:29, fatto anche in scioltezza dopo alcune vasche di rodaggio. E poi Carlo, poi non ci dimentichiamo, perché le polemiche della mattina hanno fatto passare in secondo piano, ma fra poche ore, 18:35, la grande finale dei 1500 stile libero donne con Alessia Filippi che punta all'oro. Da sottolineare che nelle batterie di questa mattina di 200 metri stile libero non hanno preso parte a queste batterie la danese Friese e la romena Potek, che sono proprio le due principali potenziali avversarie di Alessia nella corsa all'oro, segno che insomma le rivali stanno affilando le armi per la sfida che conta davvero. Quindi 18:35 l'appuntamento, ci sentiamo più tardi, Dario, grazie. Grazie a te, grazie a voi. Grazie davvero a Dario Ricci. Facile da scegliere e facile da avere è Nissan Pixo GPL, tuo allo stesso prezzo del benzina, da 5.790 euro con rottamazione. Nissan Pixo, welcome to simplicity. Vi ha presentato Roma 2009, mondiali di nuoto. E intanto maglietta bianca dello sponsor, polo bianca dello sponsor con righine verdi e sorriso stampato in faccia, ha cominciato a parlare l'interista Eto'o. Con il Barcellona ho vinto quasi tutto e adesso mi piacerebbe scrivere la storia dell'Inter. Per quanto riguarda il pallone d'oro è un premio individuale e ovviamente io non potrei vincerlo senza i miei compagni. A me quello che in realtà interessa di più è il gioco di squadra e il mio pallone d'oro sarebbe già vincere lo scudetto o vincere tutte le altre competizioni nelle quali l'Inter sarà impegnata. Se poi arriva il pallone d'oro, ben venga, sarà un bonus aggiuntivo. Ovviamente questa non è la voce di Eto'o, ma della traduttrice ufficiale dell'Inter. Volete ancora un po' di Eto'o in diretta? Eccolo. Sì, o immaginava algo differente? Quando uno llega in un situatore es nuevo para mí aquí, ¿no? La verdad es que les agradezco mucho su apoyo y cada día trabajaré para traerle la felicidad que ellos se merecen, ¿no? Y eso pasa por entrenar bien y traer la victoria que ellos quieren, ¿no? Pero sabemos que no va a ser fácil, pero estamos aquí por intentarlo y lo vamos a intentar. Beh, quando arrivi in un posto nuovo, ovviamente questo posto è pieno di novità. Io vorrei ringraziare i tifosi per l'appoggio che mi hanno dato, per l'accoglienza che mi hanno riservato e di sicuro li ricambierò lavorando ogni giorno per dare a questi tifosi la felicità che meritano. Quindi mi allenerò e cercherò di dare tanti ai tifosi. Non è facile, però ovviamente ci proverò tantissimo. Vabbè, insomma, sono dichiarazioni di rito e di circostanza. Questo è Eto'o che sta parlando ora da Piero Gentile. Poi parlerà, credo, anche Mourinho, magari di qualcosa di più interessante verrà fuori. Benedetto, provincia di Brindisi, buongiorno. Salve, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Innanzitutto, senta, io volevo tornare proprio al discorso di Eto'o Ibrahimovic. Innanzitutto l'affare, secondo me, l'Inter l'ha fatto sia dal punto di vista economico, ma sia soprattutto dal punto di vista del salto di qualità in Europa, in quanto Ibrahimovic in questi anni ha dimostrato grossi limiti caratteriali, anche in Italia, nelle grosse sfide, diciamo, non ha mai brillato. Ha fatto il partitone con Livorno e poi contro la Juve, contro il Milan, non è che abbia fatto grandissime cose. E poi inoltre vorrei dire che quest'Inter però come contro ci si è, diciamo che ha perso molto dal punto di vista tecnico, perché è un grandissimo goleador, però questa squadra manca di tecnica, secondo me. Solo ma questo volevo dire. Non è così detto, perché Eto'o comunque è un giocatore, diciamo, che ha caratteristiche profondamente diverse rispetto a quelle di Ibrahimovic. Non ha i piedi e nemmeno il colpo di genio di Ibrahimovic. È un attaccante moderno, velocissimo, col fiuto del gol, con altre caratteristiche, ed è per questo che dico che vedremo un Inter diversa, non necessariamente più debole, anzi secondo me più completa, tutto considerando anche l'arrivo di Lucio e di Leb, che penso sarà un giocatore piuttosto importante per Mourinho. Vediamo se arriva anche il trequartista, non credo molto in Cassano, che tra l'altro per quel che può valere è stato blindato di nuovo ieri dalla Sampdoria. Si sa però che comunque a Moratti l'idea Cassano piace, non credo che possa essere Cassano il giocatore in grado di completare quel mosaico. Un trequartista comunque lo completerebbe senz'altro. Luigi, provincia di Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, il mio intervento era relativo proprio alla campagna acquisti del Milan, che perlomeno sta tentando di fare, e sono molto convinto che hanno preso una strada giusta. Fondamentalmente Luis Fabiano non vale quei soldi che il Siviglia chiede, anche perché in questi anni il Siviglia non ha dimostrato poi un granché, ha dimostrato ben poco, se non con la Siviglia in questa Confederation Cup, dove lì con quel Brasile sinceramente qualsiasi centravanti fa la sua parte. Sì. Ecco, detto questo, dico che ho visto per la prima volta incominciare il Milan a aggredire, a muoversi, a correre, a fare movimenti senza palla, cosa che da questi ultimi 3-4 anni non vedevo più. E secondo me è la strada giusta per far crescere i giovani. Il mercato attualmente... No, ma va benissimo. Luigi, guardi che va benissimo così. L'importante è, come diciamo ormai da molto tempo, essere chiari. Posso anche essere d'accordo sul fatto che sia la strada giusta, però dove vogliamo arrivare? Per quali traguardi? Per quali traguardi? Ma a attualmente è un traguardo per far crescere i giovani. Attualmente Pato non è ancora pronto per diventare il leader, o diventerà, questo ne sono convinto, sì. E non è ancora pronto, è inutile adesso investire su Luis Fabiano 20 milioni, ma siamo sicuri, per me è una scommessa. Sì, sono per ma me sono d'accordo, è una scommessa, cioè non è un calciatore che ti fa fare la differenza, che ti può d'accordo. Far cambiare la squadra. D'accordo, anche secondo me non è un giocatore, non è un crack certamente Luis Fabiano, giocatore molto ondivago come andamento della sua carriera. Non è uno che ha fatto, che ha mai messo in fila due buone stagioni dal punto di vista numerico, ma va tutto bene, siamo d'accordo su tutto, però parliamo di obiettivi, per arrivare dove? Per arrivare allo scudetto? Non credo proprio, Champions League men che meno. Allora diciamo, può essere la strada giusta quella di un Milan più virtuoso, se vogliamo, come ha detto oggi Berlusconi, di un Milan più giovane, non si prenderanno più giocatori vecchi molto costosi dal punto di vista dell'ingaggio, si va coi massimo 23 anni, benissimo, però non parliamo, non andiamo a raccontare alla gente di un Milan da scudetto o di un Milan da Champions League o di un Milan competitivo al massimo livello mondiale. Anche Leonardo è stato molto chiaro su questo, siamo pochi, corti, un po' anziani, ha detto i Soldoni, l'allenatore del Milan. Basta guardare l'ampiezza della rosa dell'Inter per rendersene conto, basta fare due conti e quindi vediamo come va il mercato e poi dichiareremo degli obiettivi compatibili con il valore della nostra squadra. Questo è un discorso che non fa una piega, secondo me. Tra Eto, Ibrahimovic, Milan, Inter, calciomercato, Juventus, Diego, mondiale di nuoto, Tour de France appena finito, e motori assortiti, c'è anche il sottomarino azzurro della nazionale di basket che, ne parlavamo prima, sta facendo rotta, speriamo, verso gli europei. Saluto e ringrazio Luca Chiabotti, inviato della Gazzetta dello Sport e amico. Ciao Luca. Ciao a tutti. Luca, un'Italia che ieri sera ha battuto il Portogallo in una gara di brutte, di tante botte, un'Italia che però tutto sommato lancia buone sensazioni, almeno a vederla alla TV. A vederla dal vivo? Sì, soprattutto lancia delle sensazioni un po' strane, alle quali non siamo tanto abituati, perché anche se non è la prima volta nella quale Bargnani e Bellinelli giocano assieme in nazionale, è successo anche negli sfortunati europei del 2007, questi Bargnani, questo Bellinelli con due anni di NBA alle spalle sono un'altra cosa, ci troviamo con una squadra che, a parte un po' di ansie ogni tanto, ma fa facilmente canestro, lo fa tanto, ha tanto talento, produce punti e quindi è il contrario dell'Italia che eravamo abituati a vedere, ad amare quando vinceva qualche medaglia. Sì. In compenso, dietro e sotto canestro, siamo ancora lontani da una condizione che faccia star tranquilli quelle volte che i big, ma anche altri ragazzi che evidentemente beneficiano della presenza di Bargnani e di Bellinelli in attacco, non siamo ancora così solidi in difesa da poterci permettere una serata storta, ecco. Luca, sono giocatori diversi, sono uomini e ragazzi diversi Bargnani e Bellinelli rispetto a quelli che vestivano l'azzurro due anni fa. Sì, sono oltre a essere diventati più forti, anche Belli, che in realtà ha giocato di questi due anni metà di una stagione, la scorsa, prima poi di rifarsi male. Però è un altro giocatore, oltre a essere più potente, anche più bravo. Bargnani è più completo, sono sicuramente dei professionisti più maturi, per cui effettivamente sono più forti e sono forse anche meglio assimilabili da un gruppo che ha perso quasi tutti i veterani, che pende un po' dalle loro labbra, che comunque è più adatto a loro, per certo. Cui sicuramente l'amalgama è migliore adesso, però purtroppo sai, dobbiamo scontrarci con partite più o meno da eliminazione diretta, di dove il più classico del tutto può succedere dietro l'angolo. Sì, dietro l'angolo, comunque il rischio del cortocircuito, per dirla piatta, del cortocircuito, quindi della frazione e frizione che c'era tra le stelle nascenti, il gruppo dei vecchi che si è registrato due anni fa, insomma, questo problema non esiste più, anche perché è un gruppo differente quello che deve accogliere il talento di Bargnani e Bellinelli. Siamo al tempo delle scelte per Recalcati, perché ci sono delle, appunto, dei tagli da fare. Ci sono i 12 che il 5 agosto, quindi davvero l'appuntamento è dietro l'angolo, a Cagliari contro la Francia. Si va in 12, per adesso siamo un po' troppi. Chi va a casa? Recalcati voleva fare le scelte dopo il torneo di Bormio, e quindi quasi 15 giorni fa non le ha fatte. Poi doveva farle dopo il torneo di Trento, che è finito lunedì, e non le ha fatte. Questo significa che ha ancora un po' di dubbi, e a parte delle scelte abbastanza ovvie, perché abbiamo portato Cousin, che è una rivelazione, è stata una rivelazione del campionato di Lega 2, ma può stare a casa. Abbiamo diciamo un lungo, un play e un esterno che devono restare a casa, fermo restando che quelli che potevano essere già indicati come Giachetti, Aradori e Crosariol stanno magari giocando anche discretamente bene e hanno mostrato di avere un ruolo in questa squadra, per cui credo che ci vorranno ancora 3 o 4 giorni e vedremo, insomma. Non mi sembra che ci siano le idee chiare. Lasciamo passare le sirene e poi facciamo un'altra domanda a Luca Chiabotti, che è questa. Notizie invece sulla Francia, Luca, che era la grande avversaria in questo cammino verso un europeo al quale non possiamo mancare se vogliamo far crescere la nostra pallacanestro. Insomma, un appuntamento da non fallire, lo sappiamo. Il grande ostacolo è la Francia di Tony Parker. La Francia è come noi, sta come noi, nel senso che si è radunata non da tanto, quindi rispetto alle normali preparazioni siamo tutti un po' indietro. Ha vinto partite di 40 punti in preparazione, perché in questo periodo di solito gli avversari che trovi sono scadenti, perché non è la stagione delle grandi squadre che si sono appena radunate, quindi certo, tutto molto facile. Tony Parker si è fatto male alla prima uscita, e questo ha fatto venire i capelli dritti a quelli dei San Antonio Spurs, che l'hanno è stato subito bloccato, anche se la sua condizione sia della caviglia sia della botta che ha preso è sotto controllo e non è in dubbio per la partita di Cagliari, anche se lui ha fatto 2 mesi di vacanza assoluta, si è allenato una settimana, si ferma altri 10 giorni, e quindi la speranza almeno di non averlo nelle migliori condizioni. In più i Chicago Bulls hanno voluto indietro Noah, non gli hanno dato il permesso di giocare, e quindi, pur essendoci tanti altri giocatori, perché comunque sono partiti in raduno con 7 giocatori in NBA quelli della Francia, adesso sono 6, comunque sarà un avversario tosto, non se la passa benissimo, però il fatto di giocare in casa la prima partita senza nessun test di buon livello, né per noi né per loro, ma completamente al buio, francamente un po' ci penalizza. Sì, un po' ci penalizza, ci resta una partita con il Canada, però non è un avversario così probante. Grazie Luca, ci sentiamo nei prossimi giorni. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie a Luca Chiabotti, con cui chiudiamo questo check-up dell'Italia che si avvia verso i play-out o play-off, no, sono più play-out. Comunque la strada verso l'europeo, 5 agosto contro la Francia, naturalmente ne parleremo a lungo nei prossimi giorni, così come parleremo a lungo di Eto'o, che si è appena presentato con le parole che abbiamo fatto sentire. Bene, chiudiamo qui. Grazie a Flavio Solari in redazione, a Fabio Cantadori in regia. Torniamo domani alle 14. Buona giornata a tutti.